329. Bue garofanato. Per bue intendo carne grossa, comprendendovi cioè il manzo e la vitella. Prendete un bel tocco di magro nella coscia o nel culaccio, battetelo e ponetelo in infusione nel vino la sera per la mattina di poi. Dato che il pezzo sia di 1 chilogrammo all'incirca, steccatelo con lardone e 4 chiodi di garofani. Legatelo e mettetelo al fuoco con mezza cipolla tagliata a fette sottili, burro e olio in quantità uguali, e salatelo. Rosolatelo da tutte le parti e, strutta la cipolla, versate 1 bicchier d'acqua e, coperta la bocca della cazzaruola, con 1 foglio di carta 2 o 3 doppi tenuti fermi dal coperchio, fatelo bollire adagio fino a cottura. Scioglietelo e servitelo col suo sugo all'intorno, passato e digrassato. I lardelli di lardone, come vi ho detto altre volte, è bene tenerli grossi 1 dito e condirli con sale e pepe. Non lo credo cibo confacente agli stomachi deboli.